buonasera a tutti, questo è Brand New Music, programma riguardante le principali novità dell'alternative rock, elettronica e della musica pop. Questi sono gli Archive, storica band da Londra, operativa dagli anni 90. Territori di musica elettronica, questo è DJ Shadow che ha rifatto un pezzo dei King Lizard e The Lizard Wizards, band operativa dal 2009, australiana, band australiana di rock psichedelico e no rock, ma questo è DJ Shadow. Come on. saranno due ore fitte di novità interessanti e di pezzi stratosferici. Boy dalla Norvegia hanno sfornato questo pezzo che è spettacolare. Sono un duo da Los Angeles, sono i Girlport. Ad aprile uscirà un loro album, il secondo album. Il loro è un rock alternative rock futurista, molto intimo. Do just what you ask her to call my età, nonostante la loro giovane età. E comunque mi sono scordato che stasera c'è Sanremo, ma noi probabilmente preferiamo ascoltare questo tipo di musica. Nulla a togliere a Sanremo. Never quite enough for me. Sing a lullaby. Last time tonight. And we sing it every night. Once a lullaby. When we sing it every night. Prossimo pezzo sono i Dark Side, un progetto nato nel 2012 a New York, il progetto di Nicholas Jarre e Dave Harrington. bel viaggio questo di musica elettronica, ma con i prossimi brani spostiamoci più in ambiti new wave, post-punk, e andremo a sentire delle novità e delle chicche, tra cui l'album di Elvis Costello and the Attraction, più altre band venute fuori in queste ultime due settimane e che hanno sfornato dei pezzi veramente incredibili. Elvis Costello e The Impostors, con loro lui ha pubblicato degli album tra il 78 e l'86, poi tra il 94 e il 96. Blues malato, forse adatto ai tempi che stiamo vivendo adesso. I won't be dashed to pieces. I'm born in myth. If I need some beer and I smoke up on you, I will step up on a crack and I won't come back. Imagine me and I'll imagine you too. Sento io. sono i Death Bells, band di Sydney, che unisce un punk rock schietto e sincero ad un garage anni 70. È uscito l'album Up una settimana fa. Lui è l'ex frontman dei Maccabees da Londra e ci introduce in territori pop, dream pop. Ed ora concediamoci al rock anni 70, loro che sono i Psychedelic Funk Rumpers. Cosa che rimanda direttamente ai Beatles, più psichedelici e riservici, probabilmente un po' retro e non troppo attuali, ma questo pezzo fa sempre ballare e sobbalzare dalla sedia. Questo non c'è che dire, veramente incredibile l'energia, mi fa specie che questa musica non passi più nelle radio, perché di musica bella ce n'è tanta, ma veramente tanta, però ormai al di sotto di quello che si sente e che sentiamo tutti i giorni. Loro sono i Black New Country New Road, e l'album, un album che hanno pubblicato nel 2021 è For the First Time, sono stati incensati dalla critica come una delle migliori band alternative rock e post rock. Hanno soltanto 19 anni e questo è un singolo che è stato pubblicato in questi giorni nel 2022. In attesa del prossimo loro album, dovrebbe uscire a marzo. Questo pezzo ricorda un po' qualcosa di Lou Reed in un crescendo emozionante. What a funny way to speak. And you Concord, I came a gentle I was breathless upon every mountain just to look for your light. stairs, this staircase, it leads only to some old pictures of you. Through a 1,000 mile long chew. Hey, what's a city boy to do? Gentle hill racer, I was breathless upon every mountain just to look for your light. But for less than a moment, we'd share the same sky. And then Isaac will suffer. Crescendo pauroso, incredibile pensare che l'abbiano scritta dei ragazzi di 19 anni. Beh, fa pensare veramente tanto. Grande scrittura compositiva per questa band di ragazzini provenienti da Londra. E adesso passiamo ad un'altra band di Brooklyn. Loro sono i Bambara e hanno già l'attivo 2 album. Time of year when tourists shiver on the beach. Baby birds begin to fall out of the sidewalk trees. But sometimes when it rains, we grab a fifth and find a place to watch the planes. And one night we saw a Boeing trailing flames. And you said, they make it or they don't. Diciamo che questa band si rifà chiaramente a delle sonorità che sono una via di mezzo tra i Velvet e Nick Cave. bellissimo pezzo pure questo dei Bambara. E con il prossimo andiamo a sentire una band storica e attiva dagli anni 90, sono gli Spoon. Colgo l'occasione per mandare un abbraccio ad Enrico, mio amico che purtroppo si è beccato il Covid e quindi sta a casa e sta implorando tutti i santi. Passerà pure questa, dai Enrico. Appealing to me, advertising, and I was living tight every night. Trasferiamoci un po' nell'ambito folk e andiamoci a sentire questa cantautrice norvegese che, come dice la critica, fa un folk crepuscolare. A me questa canzone piace molto. Patriarch in a watch, be still. Pezzo molto molto bello. Con il prossimo andiamo ad ascoltare un nuovo artista emergente che si chiama Sasami e che ha scritto questo pezzo. Cosa che richiama un po' ai Nine Inch Nails e in generale alla musica industrial. Thank you. Metronomi, attivi dal 99, dall'Inghilterra, è uscito in questi giorni questo pezzo, Things Will Be Fine. I remember the first time that I felt this weight on me. Adesso prendiamoci una piccola pausa dalla musica attuale per vedere quello che accadeva oggi, 2 febbraio, esattamente nel 1980, scusate, il 1 febbraio, i Blondie pubblicano Call Me, brano principale del film American Gigolo, e noi allora ci andiamo ad ascoltare uno dei loro brani più celebri dei Blondie. Uno dei pilastri della musica New Wave, 1978. Thank you. Grandissimo pezzo questo dei Blondie, che pubblicano il loro primo album nel 1976, anno in cui sono successe tante cose, è uscita tanta bella musica e ci andremo ad ascoltare un brano che è rimasto negli annali della musica rock. Loro sono i Genesis e in quell'anno, quella di partita di uno dei componenti fondamentali, pubblicarono un album, Tricks on the Trail, e questa è la canzone che apre quell'album, Dance on Volcano. Uscì Peter Gabriel, ma i Genesis confermarono la loro grandezza compositiva pubblicando un album che avrebbe garantito il grandissimo valore e lo spessore a livello compositivo. Poi quello che è successo negli anni 80 è tutt'altra storia, perché si sono fortemente commercializzati, ma questo rimane nella storia del rock. Music's playing the notes off. pezzone, ma rimaniamo sempre nel 76 perché esce un'altra bomba di pezzo e questa la dedico al mio amico Osh. Peter Tosh con Legalize. Legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise. Call it tampee. Some call it the weed. Some call it marijuana. Yeah. Some of them call it ganja. Ringraziamo Ornella Muti che a Sanremo ha detto che bisognerebbe legalizzarla. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Singers smoking and players of instruments too. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you can do. Doctors smoking, nurses smoking, judges. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. It's good for the food. Good for us. Rimaniamo sempre nel 76 quando uscì un album di una band chiamata Ramones. Questa è Judas Punk. I don't know why my tail died. Torniamo all'80 con questa bomba de pezzo. E ma avete capito chi so questi, dai, sono le basi. E ritorniamo con questo pezzo al presente, ritornando ai giorni nostri e ascoltando un artista canadese, Jack Screen, che agisce in ambito elettronico. E il primo album è uscito nel 2017 e questo pezzo è uscito a gennaio ed è veramente bello. veramente bello questo pezzo, incredibile, molto profondo. Jacques Green ha scritto veramente un bel pezzo. Con il prossimo rimaniamo sempre in territori indie rock sperimentali. Lui è addirittura un modello e anche cantautore britannico che riprende un po' gli stilemi indie rock riattualizzandoli. Si chiama Bakar, nome d'artista, ma il vero nome non me lo ricordo, su Wikipedia ha un nome lunghissimo, ha origini sicuramente arabe ed ha scritto questo pezzo qui. Last laugh is yours before and after, 'cause my heart is torn. I think I found us the answer in end up with you. I might end up with you. I might cook food for two. I might end up and end up with you. I might end up with you. I might cook food for two. I might end up with you. End up with you. End up with you. End up with you. I'm on the way, spinning through space. I can stop or pick you up on the way. Took me some time, but it's nothing to you. Took me a while, but I told you the truth right from the start. Shot for your heart, being all messy, I tore you apart. Loving on you, 'cause your friends wanna pre. Show you the world, 'cause I don't wanna sneak. Next day, first day, first summer, my last rape. You had me bugging, I can't wait. You had me starting like we say. And W, still on the avenue. Tried to let go, but I'm falling in love with you. Sipping on pink, cool like a mint. Fly through the end, 'cause I'm finally free. The last laugh is yours before and after, 'cause my heart is torn. I think I found us the answer in end up with you. I might end up with you. I might cook food for two. I might end up and end up with you. I might end up with you. I might cook food for two. I might end up with you. End up with you. End up with you. End up with you. Think I found the Northwest one, the best one. Lost that shit, still found a hedge fund, head spun. Hope baby girl still learns a lesson. Think I found a place for you too. Think I found a place for your mood swings. Either way, I hope that you choose. Northwest free, I hope that you move with me. Northwest me, got nothing to lose. Think I found a place for you too. The last laugh is yours before and after, 'cause mine heart is torn. I think I found us the answer in end up with you. I might end up with you. I might cook food for two. I might end up and end up with you. I might end up with you. I might cook food for two. I might end up with you. End up with you. Veramente un bel pezzo questo di Bakar. Bella scrittura compositiva. Lui è Jake Fassel, è un cantatore americano che attinge alle tradizioni folk del Sud America, folk blues. L'album è uscito a gennaio ed è veramente interessante. Wish I was in London, some of the seaport town. A step a foot on the steamboat, I'd sail the ocean. La tradizione è quella di Bonnie Prince Billy, Johnny Cash, quell'America rurale, non quella sicuramente di Donald Trump. Don't you remember Molly? You gave me your right hand. You said we ever. The man, I'd be the man. While sailing round the ocean, sailing round the sea, I think of handsome Molly, wherever she might be, where she might be. Qualcuno mi dirà che questo canale si chiama Brand New Music e quindi dirà che questa è musica del passato, ma credo che oggettivamente quando ci sono autori giovani che scrivono questo tipo di musica sia oggettivamente bella al di là degli anni, dei decenni che passano, quindi il fatto che si chiami Brand New Music può voler dire o non voler dire, perché comunque questo secondo me è oggettivamente un bellissimo pezzo, sicuramente non innovativo, ma che continua considerare la tradizione è una cosa molto importante. Ci trasferiamo a Londra con i Baby Heaven, che riattualizzano il trip hop rifacendosi un po' i Massive Attack o un po' a quello che erano i Cocteau Twins negli anni 80. Lei è molto giovane, ha scritto questo pezzo che secondo me è un piccolo gioiello. left with, missing you most, and I would let my head spin, touching the coast and loneliness I stepped through, deep in the waves, surrender to the tide movements. Every day the same question, am I a nuisance? Provide the proof, roof lift the sky, stars and moon. Hold time down bad, trying to mind my business, engulfed in this cold world's grimace. Shiver, limits like a never known distance. Please rid me of the guilt I'm dismissing. Love spells and it's such a special feeling in it. All that I would do to make you my woman. Door got closed and my face kept pushing. You told me to find me, I never stopped looking. Wrapped in your arms is where my cure is. I will flow in your love's current. And then I told you, and then I told you, bellissimo, bellissimo pezzo, incredibile. Ed ora passiamo al prossimo. Loro sono Warpaint, band attiva dal 2004 da Los Angeles. Loro sono i Digitalism, questo è Hottest Record in the World. Torniamo in ambito noise rock e questi sono i Tank Dalits. I will perceive the smoke, the sulfur and the filth, the rotting things. I will hear the wailing shrieking, all the blasphemies and cries. But look on the bright side. Think of all the art that's sure to be inspired by this dread. You know there's never been a good band from London. There's never been a good band from London. From London. E salutiamo Luca da Milano. Un grande abbraccio a Luca, un mio amico. A Luca, come sono andate le borse oggi? Sono andate bene, eh? Mica come quei Luissini. Tutte verdi le borse oggi, tutte verdi. L'energetico va alla grande. Che il Nasdaq ha chiuso la grande. Ciao Greta. Di Iggy Pop qua and the Stooge per i Woven End, band importante di Denver che suona dal 2001. Torniamo in ambito New Wave. Loro sono i Team Blush da Chicago e questo pezzo si intitola Turning. All my days were turning into one long year. Oh, till I saw spostiamoci a Berlino. Questi sono gli Smile e riprendono chiaramente sonorità dei The Smiths. Sono gli What Together e ci sono molti ex componenti di gruppi importanti di band passate quali Rapture, LCD Sound System, Langwave. Questa è You Got The Blues. Thank you. ed arriviamo all'ultimo pezzo di Tara Nob Doyle. Con questo vi saluto dandovi l'appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 9 alle 11. È stato un piacere stare con voi. Il prossimo pezzo sarà un pippone, però è un pippone piacevole, perché questa è una cantautrice mezza norvegese, mezza irlandese, non l'ho capito, però vive a Berlino ed ha scritto questo pezzo che è fantastico. Buona serata a tutti, anzi buonanotte, e mi raccomando, non vedete Sanremo. If you